Sorridevo come un ebete, come se non ci fosse un prima o un dopo, ma solo quel momento lì, che si dilatava all'infinito. Senza bisogno di pensare che sarei dovuto uscire da lì, che fuori nevicava, che avevo litigato con mia mamma, che facendo benzina me l'ero rovesciata sulle mani. Tutto era solo lei, che disegnava linee assurde camminando dentro casa sua, davanti a me, in quella sera di metà dicembre. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16 e 6 minuti, oggi è il 15 di dicembre, questa è la D24. Sono Matteo Caccia e sono qui. In un giorno come questo di alcuni anni fa, il mio tempo si è fermato. Me lo ricordo nitidamente. In un giorno come questo mi comunicarono che il lavoro che stavo svolgendo era terminato, che non mi avrebbero rinnovato il contratto. Era un brutto periodo, che le cose andavano male, dovevamo capire, non che il nostro lavoro non fosse buono, è solo che loro non ci potevano fare nulla, le cose andavano così. Perché quando piove, piove per tutti, eh. Era un lavoro che mi piaceva, ma come tutti i lavori per certi versi mi annoiava ovviamente. Ma era un lavoro, e non averlo significava rimanere senza un lavoro. Ero preparato perché a me e agli altri avevano già comunicato che ci dovevano parlare e che le notizie non erano buone. Insomma, eravamo tutti preparati, ma credo che per certe cose non si sia mai veramente pronti. E quindi quando mi dissero ci spiace, ma non possiamo più rinnovarti il contratto, ecco, lì il tempo si fermò. Tutto intorno si fermò. Fu come una leggera scossa elettrica, di quelle che ti percorrono il corpo e ti lasciano immobile. Dicono che ci sono momenti in cui ti passa tutta la vita davanti. Di solito è un attimo prima di morire. Io sono morto una volta sola e non ricordo di aver ripercorso tutta la mia vita. Ricordo solo di aver pensato che non avevo pagato il mese alla signora che veniva a fare le pulizie. Però un giorno come questo di alcuni anni fa, il tempo si fermò. Fu quando realizzai di essere disoccupato e di avere un mutuo da pagare. Rimasi fermo pochi secondi, che durarono all'infinito. Ma l'effetto di quel tempo infinito fu quasi salutare. In quel momento lì non so come, non so neanche perché, però provai una forte sensazione di ordine. Cioè in tutto il caos della mia vita di allora, all'improvviso mi sembrò che si fosse creato un ordine perfetto. Come se il pulviscolo che riempie l'aria si fosse depositato sulle cose. Come se ora potessi veramente vederle in maniera più nitida. Quando il tempo si fermò mi sentii più tranquillo, in pace con tutte le cose che avevo fatto e quelle che non avevo fatto. La provai altre volte poi questa sensazione. La provai quando vinsi il mio primo grande torneo di tennis e guardai i 15 spettatori sugli spalti, che mi sembrarono migliaia, e i secondi giorni o mesi. La provai quando sentii dire a mio padre che stava parlando al telefono con chissà chi, che non era vero che mio nonno si era sentito male, ma che era morto. La provai quando il portellone dell'aereo si è aperto a 4500 metri e ho capito che era arrivato il momento di lanciarmi. Ma il tempo si è fermato anche quando feci il mio primo incidente in moto e la scivolata sull'asfalto è durata una settimana. E così, quando il tempo si ferma è come se mettesse ordine nella nostra vita. È come se vedessimo improvvisamente cosa è importante e cosa no. Cosa ci mancava e cosa avremmo voluto fare. Chi erano gli altri per noi e chi eravamo noi per noi. È un attimo che dura niente, ma quando il tempo si ferma è come se ci conoscessimo meglio. Ieri il tempo si è fermato quando mi ha chiesto di andare a vivere con lei. E voi? Quando è stata l'ultima volta che il tempo è diventato un'eternità? Qualunque sia stata quella volta, 800240024 349-238-6666. Avete presente più o meno di cosa sto parlando, no? È una cosa che capita a tutti, la sensazione che il tempo si fermi, si inchiodi. Poi in realtà non è il tempo che si ferma, ma è il nostro tempo interno. Prima, parlando di questa cosa, Tiziano mi raccontava la teoria di questo filosofo che credo si chiami Bergson, l'accento sulla O, che aveva proprio teorizzato questa idea per cui esiste un tempo che è un tempo interno, che è refrattario proprio all'idea della misurazione e quindi ha una durata che è relativa al proprio vissuto. Ecco, in altri termini questa cosa qua è quella che noi chiamiamo il tempo che si ferma. 800240024 349-238-6666. È capitato magari quando siete arrivati in cima al Monte Rosa, chi c'è arrivato, visto che io non sono arrivato manco in cima al Gran Paradiso, figurati, non ho idea di cosa si provi. Però arrivi lì e tutto lo sforzo che hai fatto in un attimo si concentra in un tempo che dura all'infinito. Oppure quando, come a Marco, ad esempio, il tempo mi si è fermato ieri, mi dice, quando con il trattore per via del ghiaccio sono scivolato nel fosso. Io vorrei capire, Marco ci scrive tutti i giorni su Facebook, ma se sei sul trattore e tutti i giorni scrivi su Facebook, come fai? Ce l'hai? Va bene che i trattori, cioè sapevo che avevano l'autoradio al massimo, magari c'hai. No, non sei un agricoltore col BlackBerry, Marco, dimmi di no. Laura, quella sera attorno a quel tavolo, quella musica e fuori la notte, il tempo si è fermato e una parte di me è ancora lì, senza prima e senza dopo. Sì, ma Laura, di cosa stiamo parlando però? Helen, esattamente così, come se non ci fosse un prima o un dopo, come se fossi stata tutta la vita ad aspettare quel momento lì, come se fossi stata creata per questo, senza saperlo, per incontrare lui, così, all'improvviso, in mezzo alla gente. Non ci siamo detti nulla, non ci siamo stretti, ci siamo solo riconosciuti, eravamo noi e ci aspettavamo. E lì, in quell'attimo, tutto era solo sfocato e sfondo, fino all'infinito. E qui entra Maria De Filippi, oppure l'altra, come si chiamava l'altra moglie di Costanzo, quella rigida che sembrava morta, però parlava, quindi non era morta, la Marta Flavi che faceva agenzia matrimoniale, no? Te la ricordi com'era? C'aveva quell'aria strana un po', sembrava, per lei il tempo probabilmente era sempre immobile. 800240024 349-238-6666. Tiziano Brunini mi suggerisce Paolo Limite, però Paolo Limite non trattava di argomenti così, era più Marta Flavi che... E quindi vi siete incontrati? Quanto? Che è successo? Mi è venuto un po' meridionale anche. Marco, 16 anni, la prima ragazza della mia vita mi molla dopo una settimana, soffro, dopo due giorni la trovo ad una festa che limona con un mio amico, ballavano un lento, il tempo si è fermato. Qualsiasi sia stato il tempo e qualsiasi sia stato il motivo per cui si è fermato, 800240024 349-238-6666. A me, ieri, è andata così. Sono andato da Natalì, ieri. Non le avevo detto che avrei incontrato Italo e sapevo che non sarebbe stato facile raccontarglielo. Ci sono cose che non si fanno. Non perché siano sconvenienti o sbagliate, semplicemente non si fanno. Punto. Il problema è che non sempre riusciamo ad imporci di non fare le cose che non si devono fare. E quindi le facciamo, magari fino a notte tarda. Continuavo a pensarci e mi convincevo che io, in fondo, a Italo non avevo raccontato nulla di compromettente per lei. Gli avevo solo detto che l'avevo incontrata e me ne ero innamorato. Poi, il fatto che lui sia partito con quella pipa sui miei programmi che ha sempre ascoltato, quella non è colpa mia. Comunque, sapevo che non sarebbe stato facile comunicarle la questione. A Milano intanto aveva cominciato a nevicare. Non a fiocchi, a spilli. Mia nonna dice che si capisce di essere diventati grandi quando, se vedi che sta nevicando, non dici più che bello, ma dici che palle. Ha a che fare con il diventare grandi e al non pensare più a quanto sia bello quel momento lì, ma ai problemi che ti creerà il giorno dopo, negli spostamenti. Questa però era quel tipo di neve che non sta giù, quella che non attacca, e quindi non fa paura e non piace neanche a nessuno. È solo pioggia un po' più solida. Ho parcheggiato la macchina nel primo posto libero che ho trovato, e anche se sapevo che ero molto lontano, mi sono tirato il cappuccio sopra la testa e ho iniziato a camminare. Ho fatto la strada meno diretta, così, per allungare un po' e avere più tempo per pensare. Dopo una decina di minuti mi sono ritrovato davanti alla vetrina del ristorante della nostra prima uscita, la Cozzeria, quello in cui ho vomitato. Il ristorante era chiuso. Mi sono fermato davanti alla vetrina per guardare il tavolo a cui eravamo seduti noi, io e lei. Mi ricordavo che era vicino al bagno. Per ora vicino al bagno non c'era nessun tavolo. Allora ho spostato lo sguardo e mi sono convinto che probabilmente mi stavo sbagliando, che il tavolo era quello appoggiato alla parete di sinistra, quello sotto il quadro con il faro sommerso da un'onda gigantesca. Il riflesso sulla vetrina però mi impediva di vederlo bene. Allora ho socchiuso un po' gli occhi e poi li ho riaperti lentamente. E improvvisamente il locale non era più vuoto. C'erano due persone, ora, sedute al tavolo. Un uomo e una donna. Io e Natalie. Il locale era immerso nel buio, ma noi eravamo lì dentro come se niente fosse. Stavamo mangiando e sorridevamo. Io ogni tanto mi sporgevo sopra il tavolo, come si fa quando si vogliono dire delle cose che le persone accanto non devono sentire. E intanto tu approfitti per avvicinare il viso e sentire il profumo dell'altro, per sentirne il calore. Poi lei è scoppiata in una risata corposa, una risata muta però, perché non sentivo nessun rumore se non quello del traffico alle mie spalle. Come se il vetro del locale fosse insonorizzato, come se quello fosse un acquario. Però ridendo silenziosamente lei ha alzato il viso e mi ha visto, là fuori, affacciata alla vetrina, e si è bloccata. Lui allora ha seguito il filo del suo sguardo ed è arrivato fino a me. Ci siamo fissati per un attimo. Io non sapevo se abbassare il mio di sguardo o tenerlo come per una sfida. Lui allora si è alzato, l'ha presa per mano e l'ha portata via. Io sono rimasto immobile a guardare il tavolo, vuoto. Tutto il locale era vuoto e buio. Ho socchiuso gli occhi e quando li ho riaperti aveva smesso di nevicare. Sono arrivato sotto casa di Natalie, ma sul citofono non ho trovato il suo nome. L'ho chiamata e lei mi ha aperto il portone. Quando sono arrivato al suo piano, la porta era socchiusa e usciva una musica di pianoforte, una musica che non avevo mai sentito. Per un attimo ho temuto che il piano fosse lei a suonarlo e ho avuto come una reminiscenza di una vita passata, una roba quasi dimenticata. Poi quando lei ha aperto la porta ed è apparsa sulla soglia, ho capito che fortunatamente era solo un CD e lei non si chiamava Margherita. Fuori si gelava, mentre in casa la temperatura era tropicale, tutta colpa del riscaldamento a pannelli. Le ho fatto notare che sembrava di stare a Rio de Janeiro e lei ha risposto che le piaceva il caldo. Io ho detto che piaceva anche a me e ho aggiunto che io ero per il riscaldamento globale del pianeta, in modo che avremmo avuto inverni miti ed estati equatoriali. Lei mi ha guardato per capire se stessi scherzando oppure fossi serio. Poi mi ha detto di mettermi comodo, che ancora non aveva preparato niente per cena. Io le ho detto che non doveva preoccuparsi, che non avevo poi molta fame. E lei mi ha risposto: meglio così, ci prendiamo una pizza più tardi. La guardavo. Saltellava da un punto all'altro della casa senza capire cosa stesse facendo. Ma mi piaceva un sacco farlo. E mi piaceva che lei lo facesse. Mi parlava della sua giornata, del libro che stava leggendo, del film che avrebbe voluto vedere, di un sushi nuovo che avevano aperto vicino a casa sua. E io sorridevo come un ebete, come se non ci fosse un prima o un dopo, ma solo quel momento lì che si dilatava all'infinito, senza il bisogno di pensare che sarei dovuto uscire da lì, che fuori nevicava, che oggi avevo litigato con mia madre e facendo benzina me l'ero rovesciata sulle mani, senza immaginare che domani forse sarebbe stato ancora più freddo di oggi e avrei dovuto venire al lavoro, che di lì a poco l'Inter avrebbe giocato negli Emirati Arabi, che nei prossimi giorni ci sarebbe stato traffico e che non aveva ancora pagato l'affitto. Niente. Tutto era solo Natalie, vestita con un maglioncino di lana e dei pantaloni aderenti, che disegnava linee assurde dentro casa sua, davanti a me, in quella sera di metà dicembre. Poi, mentre mi sistemavo i capelli con la mano, l'odore della benzina sulle mani mi ha ricordato che un prima c'era stato e che ci sarebbe stato anche un dopo. Quindi mi sono alzato dicendo che mi dovevo lavare le mani. Sono rimasto in bagno 5 minuti. Mi sono strofinato dito per dito con il sapone, e poi palmo contro palmo, e poi ancora le dita, i lati, il dorso delle mani, e poi ancora incastrando l'una nell'altra come in un rituale per riordinarmi le idee. Quando ho finito me le sono asciugate, sono tornato di là e senza darmi neanche il tempo di pensare le ho detto: Natalie, ieri sera ho visto Italo, gli ho detto che sono innamorato di te, che mi dispiace per quello che sta succedendo ma che non posso farci niente, scusa se non te l'ho detto prima, non ho avuto il coraggio e lo faccio solo ora. Lei si è appoggiata al lavandino della cucina, ha guardato un po' per terra, poi ha alzato lo sguardo, mi ha fissato, senza un'espressione sul volto. Io avrei voluto abbassare il mio di sguardo, ma mi sono fatto forza e l'ho tenuto. Lei ha chinato leggermente la testa e poi ha detto questa cosa: questa casa è in affitto, la mollo tra un paio di settimane. Ho comprato una casa nuova, è più grande. Ti va di venire a viverci con me? Vieni a vivere come me. Vieni a vivere come me. Vieni a vivere come me. Com'è che non ti muovi? Com'è possibile? mettiamo un disco sul giradisco. Baci in cucina, baci in sala, baci in garage. Radio 24, 16:23. 800-24-0024 349-238-6666. Visto che lo chiedete spesso, tutte le canzoni che mandiamo sono sul sito della radio, radio24.it, alla pagina Io sono qui, la pagina del programma. Il tempo si è allungato per molti, si è dilatato per tantissime persone. Caduta in moto a Vallelunga, scodata, sbalzato, asfalto che scorre sotto per pochi secondi interminabili. E ti dici, non è successo, vero? Ivano. Quando l'ho vista sotto casa sua mentre si è baciata con un altro. Ma il tempo non si è bloccato esattamente lì, ma quando lei, al mio suonare il clacson, ha aperto gli occhi e mi ha visti. Ci saremmo guardati per un'ora in due secondi, Stefano. Per me il tempo si è fermato quando mia moglie mi ha detto di essere incinta. Sono rimasto zitto per quanto non lo so. Non ce l'aspettavamo al primo tentativo, ora la bambina ha 7 mesi. Oh, sempre così, dai proviamo? Che ne dici? Proviamo? Ma dai, dai, fai così, smetti di prendere la pillola. Boom! Dopo 2 giorni sei inguaiato. Mi chiamo Claudio, sono anch'io un agricoltore. Con gli smartphone si fanno miracoli, anche ascoltare la radio e chattare. Ma questo me lo immagino, Claudio, però però mi sembra che Marco sia proprio sempre lì su Facebook. Magari c'è il pilota automatico, tipo per il trattore. No, il pilota automatico. Sì, è vero, c'ha ragione pure Bonini che dice che quando noi cominciamo lui ha finito di lavorare da un pezzo. Il mio tempo si è fermato ora mentre faccio la mia lampada solare. Vi ascolto, ma chi siete? Ma sta parlando con, no, con noi? Mi dà del voi? Matteo Caccia, Radio 24. Sai come quando dai. Chi è? Matteo Caccia, presente. Matteo Caccia, Radio 24. Il tempo si è fermato quando 2 settimane fa sono andato a trovare il mio amico che abita a Santo Domingo. Dopo 10 minuti che ero arrivato, ho detto: questo è il paradiso. Ciao, Massimo di Padova. Oggi invece mi è arrivato una mail che descrive un momento in cui il tempo si è realmente fermato per Franco, mi pare che si chiamasse. Sì, era un momento del febbraio 2003. E il suo racconto dice così. A 35 anni per la prima volta sono entrato in piscina per un corso di nuoto, con molta paura. Verso la fine del corso, facendo una mezza vasca d'orso, perdo i miei riferimenti sul soffitto della piscina. Quando mi fermo e faccio per mettermi in piedi, l'acqua dovrebbe essere alta 1,5 metri, invece di emergere mi trovo sott'acqua a guardare uno scalino. Realizzo di essere finito in una buca di 4 metri, quella dove si fanno i tuffi dal trampolino. Provo l'istinto di camminare verso lo scalino, ovviamente, ma non avanzo di niente e continuo a scendere. Mi arriva un pensiero nitidissimo. Non ti preoccupare, stai calmo, siamo in piscina e adesso arrivano a salvarmi. Ma non arriva nessuno. Quando arrivo all'altezza dello scalino mi do una spinta con le mani e mentre risalgo di quel poco distinto mi viene di dare anche un po' di sgambate. Beh, non male, Franco, bravo. Emergo con forza, prendo un respirone che devo sembrare il peggior Fantozzi e torno sotto. Anche questa volta cerco di andare verso il piano vasca camminando e ci arrivo. Mi metto in piedi, ho l'acqua che mi arriva appena al petto e i polmoni che mi fanno male per l'aria che ho trattenuto. Mentre mi tolgo gli occhialini convinto di aver compiuto un'impresa, la mia istruttrice, a bordo vasca, a 2 metri da me, si mette a ridere e mi chiede che cosa stia facendo. Totale tempo effettivo 5-10 secondi, tempo percepito un'eternità. Quella volta il tempo si è davvero fermato. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. E stai qui. Nella foto siamo in riva ad un lago. C'è un prato che digrada dolcemente in un lago. Perché un lago sembra un po' una pozza. Però tutto ha un colore strano, perché c'è una montagna che ha la terra rossa, anche la terra che si immerge nel lago o nel fiume sembra rossa. Ma il vero protagonista della foto è questo giovane hippie con una maglietta bianca, dei jeans, sdraiato sull'erba con le braccia a croce che guarda verso il cielo. A Medel Gandur, 24 anni, nella foto mi trovo in un paesino vicino a Marrakech, lungo un fiume. Ci sono stato quest'anno per la prima volta dopo 3 anni, sono andato da solo e ho trovato un paesaggio meraviglioso, coperto di verde. A me è sembrato il paradiso. Io sono qui. Grazie da me, andate a vedere la foto, ci avevo beccato come al solito, non è un lago ma è un fiume, sembrava una pozza invece è un fiume. Grazie ad Ahmed e a tutti quelli che vanno a vedere la foto, radio24.it, la pagina di Io sono qui. Attenzione, i trattori hanno la guida satellitare e vanno da soli nel campo mentre lavorano. Parola di esperto, Giorgio da Milano. E poi, prima di andare agli altri messaggi, c'è un ascoltatore, Fede, che mi scrive, quando fai queste domande, non capisco quali, credo quelle di quando vi sei fermato il tempo, quello di cui parliamo oggi, pensa a queste domande. Ma tu quanti anni hai? 35. Tieni famiglia? No. Hai figli? No. Li porti a scuola? No, perché non ho figli. Li metti a letto? No. Fai i compiti con loro fino alle 10? No. Da quanto tempo non vai al cinema? Da un paio di giorni. Quanti aperitivi fai alla settimana? Sono a stemmio. Quante volte fai l'amore al mese? Cerco di contare la settimana. Le bollette quanto costano? Dipende, Fede, dipende da che bollette sono. Quelle del telefono 30 al mese, con internet, o altrimenti del gas in estate poco, in inverno di più. Dove vai in vacanza? Dove capita? Pensa anche a queste cose quando fai queste domande. Comunque bravo, Fede. Fede, grazie per queste domande. Magari fatele anche tu queste domande, visto che tu sicuramente hai dei figli e li metti a scuola fino alle 10 e li accompagni al saggio di ginnastica. Mamma mia, non voglio pensare neanche al saggio di ginnastica dei propri figli, o adesso le robe tipo i saggi di Natale. Mi vengono i brividi solo a pensarci. Il tempo si è fermato quando mi sono strafatto di crack. Lo immagino che si sia proprio, ma completamente stonfato proprio. Mi si è fermato quando ho investito una persona, Mirko da Trento, speriamo tutto bene. Il 13 giugno del 2008, quando alla mattina mi sono alzato e finalmente ho deciso di dare le dimissioni dopo 10 mesi che lavoravo in un'azienda. Non sapevo cosa avrei fatto dopo, ma non mi importava nulla, ero felice, questo mi bastava. Ho preso la bici e sono andato, non a farsi un giro, a Capo Nord, capito? Andiamo invece subito al telefono, andiamo, abbiamo detto di prendere una per prima, non me la ricordo, prendiamo lei, Antonella. Pronto Antonella? Sì, ciao Matteo. Ciao, senti, tu stavi per partorire. Ma sì, era così, sono uscita dalla sala travaglio per andare nella sala parto, okay, che era di là del corridoio, dovevo attraversare un piccolissimo corridoio. E in quel momento, invece che pensare a questa cosa che stavo facendo, non so perché, mi sono vista come se fossi esterna, come se io fossi un osservatore. C'erano delle persone ferme in una saletta e il tempo si è fermato così a vedere questa che passava da una stanza all'altra. Nel passaggio da corridoio. Strafatta proprio. Strafatta di cosa? No, strafatta di cosa? Di tutto quello che mi hanno dato per partorire, di ossitocina, di tutto il resto. Beh, ma anche il dolore però è una forma di, no, di spostamento dalla realtà. Tu stavi già soffrendo, no? Il travaglio è già doloroso in sé, no? Il travaglio è stato molto doloroso, però non so perché, invece che essere concentrata sul mio dolore, su quello che mi stava succedendo, è come se mi fossi sospesa esternamente a questo. Parto è andato bene poi? No, poi il parto è andato benissimo, nessun problema, qualche ora, nel senso che una che ce la fa da sola. Quanto è durato Antonella? Dunque il travaglio è durato parecchio perché mi avevano dovuto aiutare, però poi il parto credo sia durato un minuto, una mezz'ora, in qualche modo mi hanno aiutato. Antonella, so che devi andare, quindi ti lascio e ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao. Si è fermato il tempo quando ho subito un incidente all'addio al celibato 3 giorni prima di un matrimonio. Andrea. Sì, ciao. Ciao Matteo. Cosa è successo? 6 giorni prima di sposarmi, al mio addio al celibato, sono cascato rovinosamente e mi sono fatto esplodere la rotula, nel senso che mi si è rotta in 8 pezzi. Che immagine orribile l'esplosione della rotula. Forse solo Ronaldo quando contro la Lazio urla e rimane e stramazza al suolo è un'immagine simile a quella. Peccato non sono Ronaldo, però... Vabbè, oddio, adesso non so neanche quanto peccato. Comunque, cos'è accaduto? Che è saltato il matrimonio, no? Sì, assolutamente. Ho dovuto subire subito un'operazione. E di conseguenza in quel momento mi si è fermato il tempo perché pensavo innanzitutto al mio ginocchio e poi comunque sia tutta l'organizzazione di un anno di matrimonio è andata sfumando. Ma cosa stavi facendo esattamente per distruggerti la rotola in quel modo? Stavo ballando. L'altra versione qual è? Ballando. Ah, stavi semplicemente ballando. Sì, sono saltato, sono cascato sul fulcro della rotola. Va bene, ti ringrazio Andrea, altrimenti perdiamo tutti gli ascoltatori di Essere okay. Benessere. Bene. Ciao, buona giornata, grazie Andrea. Ciao, grazie. Andiamo a Taranto da Agostino. Pronto Agostino? Ciao, sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buon pomeriggio ormai. Anche a te, raccontami tutto. No, è successo la scorsa estate, dopo anni e anni di sacrifici, ero riuscito a comprarmi una barca a vela di 10 metri. Wow. E era stato proprio il mio sogno della mia vita, erano uh-huh. tanti anni che... cercavo di fare questa cosa, se ero riuscito. L'estate abbiamo deciso di fare una crociera, siamo andati in Grecia. Sì. Al ritorno, l'ultima tappa, da Corfù a Santa Maria di Leuca, uh-huh. e abbiamo trovato mare molto grosso e vento che ha aumentato sempre di più, nonostante le previsioni non fossero state così pessime. Sì. E quindi io mi sono trovato in mezzo al mare, e con il mare agitato, il vento molto forte e le vele erano tutte aperte. Quindi ho guardato per attimi interminabili le vele cercando di capire cosa dovevo fare. Ho chiuso il Genoa, cioè la prima vela, quella che sta più a prora. Dopodiché poi ho cominciato a pensare di come fare per diminuire la superficie velica della randa. Senti, come ne sei uscito, Agostino? È successo che improvvisamente ho sentito un rumore assordante, improvviso, e si è rotta una cima d'acciaio che reggeva l'albero. Cioè, hai disalberato? Insieme a tutta la vela, sì. E il boma è caduto improvvisamente, velocissimamente in acqua. E lì si è fermato il tempo, perché la barca è diventata ingovernabile. Io ho guardato avanti, non c'era più l'albero, cioè una barca a vela senza albero è sì, fa impressione. Dimmi però come ne sei uscito, Agostino, cosa hai fatto? Hai recuperato, hai tagliato tutto? Oppure? Abbiamo cercato di fare quello che potevamo, perché eravamo in quattro a bordo. Sì. Dopodiché abbiamo provato a chiamare il soccorsi, perché non poteva, la barca non era governabile così. Chiaro. Però l'antenna del VHF era in acqua, sott'acqua, attaccata all'albero. Sta venendo l'angoscia, Agostino, però so che sei vivo. Quanto ci hai messo a tornare a casa? No, niente, poi è passata una barca di italiani che ci ha salvato, e ancora li ringrazierò. Ho dovuto abbandonare la barca, che poi ho svenduto lo scafo in qualche mese dopo. Hai abbandonato la barca in mezzo al mare? Per forza, non era... Non si poteva fare altrimenti. Agostino, bel momento, ti ringrazio molto, buona giornata. Bella esperienza, ciao. Ciao, grazie. Prima, a proposito appunto di disgrazie di mare e in questo caso di montagna, è arrivato questo SMS. Mi è successo che il tempo si sia fermato quando sono rimasta mezz'ora sotto una valanga. Pronto, Erika? Ciao, Matteo. E già il fatto che tu sia qui a parlarne, direi che è una buona notizia. Sì, è un miracolo proprio. Cosa stavi facendo? Stavi sciando? Sì, stavamo salendo un pendio e eravamo in 11, sì, tra cui uno mio marito, e è successo che a un certo punto ho sentito un soffio e poi ho alzato gli occhi, ho visto la valanga che mi veniva addosso. Tu sei rimasta sempre cosciente? Io sono rimasta cosciente fin tanto che rotolavo dal pendio, circa 300 metri. Ostia. E poi il primo momento in cui sono rimasta sepolta ero cosciente. E poi hai perso i sensi invece? E poi sicuramente ho perso i sensi, perché a me è sembrato un attimo e poi, calcolando i tempi dell'arva, hanno stabilito che sono rimasta. Ah, quindi lì. Tu avevi l'indicatore satellitare, ti hanno trovato grazie a quello. Senti, l'arva, sì, altrimenti non ci sarei. Quando hai riaperto gli occhi, dove eri? Cosa ti ricordi? Io ero sotto sepolta, mi ricordo che vedevo filtrare un pochino la luce dalla neve. Sì. E poi stavo respirando molto affannosamente, perché naturalmente avevo rotolato per parecchi metri. Ci credo. Il primo pensiero è stato quello di regolarizzare il respiro. Cioè, e immagino. Di respirare il meno possibile. Senti, è stato proprio un automatismo. Ma ti hanno tirato fuori con i cani? No, è stata una del gruppo che mi cercava più in basso rispetto agli altri. E ti ha trovato? E mi ha trovata, poi gli altri mi hanno disseppellito, poi è arrivato l'aiuto al Fin Dolomites che mi ha portato a Trento all'ospedale. Erika, grazie per il tuo racconto. Ci sentiamo presto, grazie. Buona giornata. Ciao, grazie a te, grazie a Tiziano Bonini, a Paulino Corleoni, ma soprattutto grazie a Vittoria Mussini, perché la puntata di oggi era dedicata tutta a lei. Domani non lo so, ma oggi io sono qui e voi dove siete?